E finalmente ci siamo. Un tira e molla di 7-8 anni, ma alla fine ci siamo. Atto conclusivo, fatto recidivo, esatto ancora vivo, non mollo, mi deprimo. Mi hanno detto non pensare, hanno detto non sperare, hanno detto piedi a terra e costretto a non volare. Corri dritto al gabinetto, tieni il culo stretto, cerca il tuo rispetto, questo mondo è a sé diretto. Ti considerano oggetto, conta più l'aspetto. Su una duna io rifletto, con la luna io rigetto pensieri tristi e amari, dei concetti un po' banali. Ora privo di ideali, scrivo trip subliminali. E dall'azzato alla caviglia, soggiogato la mia voglia, schiavo di una sveglia, mi alzo pure in dormiveglia. Sulla scrivania comincia allora l'agonia, la fantasia mi vola via, mi scompare l'armonia. Ma in questi tempi è una follia gettare tutto quanto all'aria, non sarebbe ipocrisia da parte mia. Anarchia! Se anche avessi un'occasione, se facessi un palladone, attirerei più sull'addome, urlerei questa canzone. Guardami in faccia, guardami bene, sono qui perché qualcuno ancora ci crede. Guarda avanti, non mollare, tieni sempre duro. Fede, sogni, sono vita allo stato puro. Qualunque cosa accada, che tu creda, che tu prega, che non creda, che non prega, che sia nero, che sia bianco, attivo, che sia stanco, non frignare tanto. Tempo al tempo, passa tutto, racci dentro, sii contento. Serve a poco stare spento, conta troppo sopra il mento. Un sorriso condiviso, darà pace se deciso. Darà pace, non mollare, quando pensi di crollare, quando ormai è per te la fine. Sì, mi ha lasciato, ciò mi deprime. Ciò per deprime, ciò ti già stile, ciò mille rime. Perciò sta sentire ciò che ho da dire. La vita continua, non stare a poltrire. Il tempo passa, il dolore finisce, il colore compare, la tristezza svanisce. Stai ancora pensando davvero di farti quelle due strisce? Non abbatterti o stare a sbatterti per quattro amici che stanno a sfotterti. Tu non nasconderti, non confonderti, rimani integro, rimani integro, ma interno, detto internos. Seguo Milano, ma per Mario Bros, così metto il nos dentro un termostato, perché sono un boss, non tostato, non come in Lost, dimostro to. Sono un mostro che non molla, non ha senso. Perciò guardami in faccia, guardami bene, sono qui perché qualcuno ancora ci crede. Guarda avanti, non mollare, tieni sempre duro. Fede, sogni, sono vita allo stato puro. E allora ricomincio con l'auspicio che il dentifricio ripulisca anche la bocca di chi dice che il mio è un capriccio. Il sistema è posticcio, sfondare, faccio un pasticcio. Se non provo mi sento nulla, vado per il pensiero fasullo. Il pollo resta tale, lo statale resta banale. Cane, bestia, animale, voglio staccarmi dal collare e portare le prove che chi non muore si rivede. Provare se uno ci crede, vede lo scopo al di là del piede. Io ci sono, io l'ho provato. Traguarda questo tracciato, io l'ho guardato. E dimmi, cosa vedi? Io vedo te, tutti loro che in coro urlano. Guardami in faccia, guardami bene, sono qui perché qualcuno ancora ci crede. Guarda avanti, non mollare, tieni sempre duro. Fede, sogni, sono vita allo stato puro. E così non mollerò quando c'è da mollare. Non starò in disparte a disperarmi come ho fatto in passato. Non farò il depresso per più di un giorno. Il passato è passato. E non mollerò quando qualcuno mi dirà di farlo, perché non ha alcun senso il mio pensiero odierno. Non va bene quello che faccio? Stammi distante, non sei il mio badante. Io non mollo.